Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Legge di stabilità, la Camera ha dato il via libera al disegno di legge che ora va in Senato. Soddisfatto il ministro dell'economia Padoan, il testo è stato migliorato senza alterare l'impianto, afferma. Sì, della Camera la legge di stabilità che va al Senato, tra le misure 80 euro, bonus bebè, taglio IRAP, Padoan, possibile inversione di tendenza. Sì, della Camera la legge di stabilità che passa al Senato, Padoan, con questa manovra torneremo a crescere. Nunzia De Girolamo, capogruppo del nuovo centrodestra alla Camera. Buongiorno, la legge di stabilità è passata. Per buongiorno, voi? Buongiorno, sì, è passata. Per voi è un bottino magro? No, assolutamente, è stato anzi, credo, una legge di stabilità targata molto centrodestra su elementi come la famiglia, le imprese, la sicurezza, le infrastrutture. Se c'è il bonus su bebè e se le mamme oggi possono avere per i figli fino a 3 anni un bonus per l'acquisto dei prodotti della prima infanzia, grazie al nuovo centrodestra. E quindi è quello che voi pensate di intestare, vi potete intestare, il bonus sì, bebè? Sì, il bonus bebè, anche sull'IRAP, sulle non autosufficienze, tutto ciò che riguarda la famiglia e le imprese è assolutamente targato nuovo centrodestra, così come ovviamente le forze dell'ordine e il tanto discusso blocco degli stipendi. Senta, intanto Berlusconi però sceglie Salvini, il goleador così lo chiama, come interlocutore per fare il leader del nuovo centrodestra. È il nuovo leader anche per voi? Ma Minoli, ne è così certo. Io non è che sarei così certa di questa cosa. D'altra parte Berlusconi ad ogni libro di Bruno Vespa incorona un cosiddetto delfino, quindi oggi mi pare abbastanza di vivere un déjà vu. Dalle mie parti si dice che questa investitura è durata Natale e Santo Stefano, mi pare che abbia già ritrattato Berlusconi. Senta, ma per Salvini come per Berlusconi, Alfano comunque resta senza il quid, allora? Ma guardi, visto che c'è anche un ravvicinamento in corso, fra io credo, chi? Ma fra Berlusconi, Alfano, il centrodestra, c'è un dialogo in questo momento. Credo che qualcosa di buono Alfano l'avrà fatto. E comunque, si sono riavvicinati quindi? C'è una fase di riavvicinamento e credo che una persona abbia tutta la vita per dimostrare se ha il quid oppure no, onestamente. Non ha paura di fare la fine di fini, Alfano? Ma guardi, in politica ognuno di noi ha paura di fare una brutta fine, però io non accosterei Alfano a Gianfranco Fini e sicuramente le posso dire che Alfano rispetto a Fini ha sofferto per questo distacco ed è stato un distacco anche più coraggioso vista la storia da dove veniva. Senta, Berlusconi, comunque lo dice lei, l'ha perdonato anche perché lui non sa tanto cosa fare, perché il mazzo in mano, come dice Renzi, non ce l'ha più lui? Ma che Berlusconi non sappia cosa fare mi sembra impossibile. Se Renzi lo sottovaluto rispetto al fatto di saper dare le carte o non dare le carte, sbaglia, fa un errore che la sinistra ha fatto per 20 anni. E sulla parola perdono penso che in politica la parola perdono non abbia senso. No, perché? Ma perché poi alla fine purtroppo la politica è fatta di momenti e si supera tutto pur di realizzare il bene comune. L'ha detto stesso Berlusconi, qualsiasi fase difficile, qualsiasi scelta viene superata per poi qualcosa di più grande. Senta, ma onorevole Di Girolamo, ma secondo lei il patto del Nazareno regge oppure no? Credo che questo dipenda da Renzi. Se vuole andare al voto il patto del Nazareno non reggerà. Credo che Berlusconi abbia dimostrato a Renzi che è uno che sa mantenere la parola, quindi la scelta sulla tenuta o meno è rimessa tutta al Presidente del Consiglio. Senta, ma Fitto dice sì alle primarie per tutti, anche per Berlusconi, è credibile? Ma Berlusconi abbiamo sempre detto quando eravamo in quel partito che le primarie fino a quando era in campo Berlusconi non ci sarebbero state. Ed eravamo tutti d'accordo, ricordo, compreso Fitto. Le cose oggi sono cambiate perché Berlusconi vive purtroppo questo disagio generato dalle vicende giudiziarie, pertanto l'unica scelta credo che siano le primarie. Ma faranno pace oppure esce da Forza Italia Fitto secondo lei? No, resta in Forza Italia senza dubbio. Sì? Non lo metto proprio in discussione anche perché lo ha sempre detto che avrebbe fatto una battaglia interna e credo che Berlusconi dia molta più noia dentro Forza Italia che fuori. Ma lei ci crede a questo rapporto tra Fitto e D'Alema? Ma saranno amici, ma non credo che possano costituire un pericolo per Matteo Renzi. Senta, onorevole Di Girolamo, ma l'orizzonte comunque c'è la successione al Quirinale, ne parlano tutti, anche se fortunatamente il Presidente è ancora là. Per non fare come si è fatto per i giudici della Corte Costituzionale, quale può essere il metodo? Ma sicuramente quello di, e non abbiamo i tempi, di farlo eleggere dai cittadini, in modo che non sia il Presidente del Parlamento. Vabbè, e questo non è il caso. Di tutti i cittadini. Adesso non è possibile. Sicuramente dovremmo fare una scelta il più condiviso possibile fra i partiti e i gruppi che ci sono in Parlamento, ma soprattutto io dico che deve essere un grande Presidente Made in Italy, cioè una persona che rappresenti davvero l'Italia in giro per il mondo. L'Italia è una grande potenza e questo non va sottovalutato, ma, nonostante il momento di crisi. Scusi, grande nome, Made in Italy, lei è un nome che possa mettere tutti d'accordo? Ce l'ha in mente o no? Ma difficile, direi Draghi, anche se ha molto da fare in questo momento, però lo troveremo un Made in Italy. Si troverà un Made in Italy. Senta, lei in questa legge di stabilità però, ed è una delle ragioni per cui è qua, un successo l'ha ottenuto sulla RAI, aspetti un attimo, senta qua. Alcuni italiani ritengono che il canone sia una tassa ingiusta. Ma quanto pagano gli altri cittadini europei? Quanto evadono negli altri paesi? E in quanti guardano? E noi, in quanti guardiamo la RAI? Il canone più basso, l'evasione più alta, gli ascolti migliori. RAI, il servizio pubblico leader in Europa. Viva la RAI, fa crescere sovrani, viva la RAI. Non si paga il canone RAI, punto, basta. Trasmettete qualche cosa di più interessante. Viva la RAI. Con il suo impero. 13.000 dipendenti, 600 dirigenti, il 60% dei ricavi vengono fatti fuori. Viva la RAI. Qui stanno tagliando tutti, le famiglie sono anni che tagliano, se si chiede un contributo alla RAI indicando anche la strada trovo francamente umiliante dover assistere a queste scene. Viva la RAI. Che cosa giusta e con la RAI. I sacrifici i lavoratori della RAI ne hanno già fatti e continuano a farne. Il lavoratore della RAI, quante volte lo incontrai, quante volte mi incontrò. I cittadini chiedono trasparenza alla RAI. Il lavoratore della RAI, quante volte lo invocai, quante notti mi turbò. Il consiglio di amministrazione di Viale Mazzini ha deciso di ricorrere contro il prelievo di 150 milioni. È una solenne stupidaggine, ma come gli passa per la testa di fare un ricorso contro l'azionista che gli chiede di tagliare e gli indica una strada per tagliare. Poveri noi, se non si mettessero d'accordo alla RAI. Intanto in borsa le azioni Rai Way viaggiano in deciso rialzo. Rai Way può rappresentare un layer importante, credo che potrà dire la sua in questo contesto. Viva la RAI. Da gennaio gli italiani si troveranno il canone RAI direttamente nella bolletta elettrica. Con questo strumento noi consideriamo di recuperare in modo pressoché totale l'evasione. Come è arrivata questa bolletta? 1.750.822 lire. La riforma del canone RAI è in stand by, è nei piani del governo, ma non entrerà nella legge di stabilità. Ecco, onorevole Di Girolamo, lei ha fatto togliere il canone RAI dalla bolletta della luce dove l'aveva messo il governo. La vuole morta? Eh? Ma no, assolutamente no. La vuole privatizzare? No, ma nemmeno. Ovviamente resta un'ipotesi se la RAI è quella che viviamo oggi. Ecco, ma cosa volete fare allora? Guardi, io penso che la RAI, così com'è, è soltanto una grande ed inutile televisione commerciale. E quindi non penso che possa restare esattamente quella che vediamo oggi. Sicuramente ci sono all'interno della RAI cose da servizio pubblico, come ad esempio le fiction, ma il punto non è questo. Noi vogliamo sapere qual è il progetto editoriale in base al quale si pretende il pagamento del canone. Ecco, però da 20 anni centrodestra, centrosinistra hanno nominato spesso persone illustri che però non sanno nulla di televisione e lo dicono, se ne vantano. È la strada, bisogna continuare su questa strada? No, appunto, sono anni che noi pensiamo solo alle nomine, tanto al centrodestra quanto al centrosinistra, e non si dice mai che cosa si vuole fare per la RAI. Allora, le ripeto, sicuramente il canone in bolletta no, vedremo come farlo pagare perché è una tassa ed è una evasione, quindi non è giusto. Però, ma lei ha un metodo da suggerire allora per fare perché i vertici siano scelti più o meno come vengono scelti in tutte le televisioni di servizio pubblico del mondo? Sì, io penso che in tutto il mondo i manager sono arrivati all'interno delle televisioni, perché è necessario che un manager coordini sia la competenza gestionale, coniughi, che quella editoriale, e noi chiediamo a Renzi esattamente questo. Prima ci deve dire cosa deve essere il servizio pubblico e poi come si faranno le scelte. Ecco, insomma, sostanzialmente, se ho capito bene, lei vuol dire primarie anche per presidente e direttore generale della RAI? Bella, questa della primaria è per la RAI, Minoli mi piace davvero molto, e devo dirle che obiettivamente io pensavo proprio ad una raccolta dei curriculum, cioè chiunque oggi ha i titoli ovviamente e si sente in grado di rappresentare la RAI, si candida, li invia alla presidenza del Consiglio, dice qual è il suo progetto e quindi cosa intende in base a quello che abbiamo detto fino ad oggi, e poi si faranno le scelte, ma basta con le scelte nelle stanze segrete. Vabbè, quindi questa mi sembra una proposta interessante. Servizio pubblico cosa vuol dire? Progetto chiaro, curriculum, primarie e scelte dei manager. Vabbè, vedremo quanta strada farà la proposta di Girolamo. Senta, ma a questo punto il canone lei lo vede finanziato come? No, io sicuramente non lo vedo in bolletta, perché penso che non semplifichi la vita dei cittadini e sarebbe un errore. D'altra parte c'è stata un coro generale, abbiamo fatto una proposta sull'IRPEF, se ne può ragionare, facciamo un tavolo di maggioranza nella quale si discuta di questo, ma dopo tutto quello che le ho detto, perché la RAI secondo me può diventare volano dell'industria dello show business, e quindi anche la RAI la vedo come la grande industria del Made in Italy del nostro paese, ovviamente del Made in Italy della cultura. Difendiamo la nostra identità nazionale, cominciamo a farlo dalla RAI, Minoli. Senta, onorevole Di Girolamo, un'ultima domanda, ma si voterà in primavera? Bella domanda, si rischia. Sì, Mario Secchi? Sì, no, siccome io ero favorevole al canone in bolletta, l'abbiamo detto tante volte qua, ma era un modo per pagare meno e far pagare, non dico tutti, ma quasi tutti. No, tutti. Allora, l'evasione al 30%. Allora, non era un buon modo appunto per abbattere l'evasione, diminuire il costo del canone e cominciare così anche a mettere i presupposti per la riforma della RAI? Non capisco l'arroccamento, ecco. Io semplicemente penso che quello non sia un buon metodo, e quindi ritengo che sia molto più semplice farlo con l'IRPEF, così è anche progressivo e allo stesso modo la pagano tutti, ed è giusto, perché un'evasione è una tassa e la tassa non va messa e confusa con la tariffa, che riguarda invece la bolletta dell'energia. Già credo che ci siano nella bolletta parecchie tasse per politiche industriali sbagliate degli scorsi anni. Detto ciò, resta il discorso che ho fatto prima. Certo. Pensiamo prima al progetto editoriale, a cosa vogliamo, se ci sta bene il servizio pubblico e quindi cosa intendiamo per servizio pubblico. Fatta una ristrutturazione della RAI, ovviamente gli italiani, se l'offerta editoriale è buona, vedrete che pagheranno indipendentemente dal sistema. Pietrangelo? Buongiorno, una domanda in spirito natalizio. Chi chiamerà per prima per gli auguri, Berlusconi o Alfano? Ma Berlusconi, perché Alfano lo vedo tutti i giorni, fino a Buttafuoco. Ah, scusi, un'ulteriore domanda. Renzi o Alfano prima? Alfano. Ah, mamma mia. Che lealtà, fantastico. Grazie onorevole Di Girolamo. Che non funziona in politica. Grazie a voi e complimenti sempre per questa fantastica trasmissione. Grazie. Il 24 novembre a Vienna sono terminati i negoziati sul programma nucleare iraniano, con una proroga di 7 mesi per le trattative diplomatiche. Così si sono espressi i leader mondiali, a cominciare dal ministro degli esteri Zarif. È importante che le altre potenze capiscano che le sanzioni non hanno mai contribuito alla risoluzione della questione e devono essere rimosse, perché non hanno prodotto nulla di buono. Aggiunge John Kerry, segretario di Stato americano. Spero di poter dire che stiamo facendo cauti progressi, ma ci sono ancora grandi e serie divergenze. La cosa buona è che le 6 potenze sono unite e insieme stanno portando avanti un serio lavoro per giungere a una soluzione. E ancora Lavrov, ministro degli esteri russo. Continuiamo a credere che tutti gli elementi per un accordo tra l'Iran e le 6 potenze siano già sul tavolo. Ora è compito delle diplomazie mettere insieme correttamente il pacchetto dell'accordo, così che il risultato non sia esposto a tentativi dell'ultimo minuto di ottenere risultati extra, che non sono realistici. Benjamin Netanyahu invece sostiene: penso che il principio chiave sia quello di non annullare le sanzioni prima di aver smantellato la capacità dell'Iran di farsi un arsenale nucleare. È chiaro che l'Iran non lo accetterà, ma credo che se gli Stati Uniti e le altre potenze lasciano all'Iran questa possibilità, allora si tratterà di un errore storico. Marta Dassù, direttore di Aspen Institute, ex viceministro degli esteri. È una buona notizia la proroga di 7 mesi? Lo è, perché l'alternativa sarebbe stato il completo fallimento di questo negoziato. Quindi è l'ipotesi, diciamo così, meno peggiore. C'è il tentativo di raggiungere un accordo quadro a marzo e poi di andare nei dettagli specifici per il giugno del 2015. Ma è ancora uno strumento efficace quello diplomatico con l'Iran? Ma direi di sì, sono state efficaci le sanzioni, io credo, a differenza di quanto diceva il ministro degli esteri iraniano, perché effettivamente l'incentivo vero dell'Iran a un negoziato è l'economia, un'economia che va male anche per il calo del prezzo del petrolio, mentre Obama ha bisogno di un certo grado di cooperazione con l'Iran per tutti i problemi che ha in Medio Oriente. Certo, al tavolo della trattativa c'è anche la Russia. Ecco, le sanzioni imposte alla Russia rallentano la soluzione? No, direi che la Russia sul quadrante iraniano fa in una certa misura anche un suo gioco, ma per ora è stata abbastanza cooperativa. Fa anche un suo gioco perché la Russia in realtà è in competizione con l'Iran quale grosso produttore di petrolio e gas. Ecco, dottoressa Dassù, il rapporto tra Stati Uniti e Iran cresce o no? Ma io credo che per la prima volta dal 1979, cioè dalla rivoluzione iraniana, il fatto sostanziale, davvero sostanziale, che sia gli Stati Uniti che l'Iran vogliono migliorare il loro rapporto, che poi ci riescano, è un altro conto. Ecco, dottoressa Dassù, ma Israele, abbiamo sentito, Netanyahu si oppone naturalmente all'allentamento delle sanzioni verso l'Iran. Si può fare senza il consenso di Israele? Ma credo che purtroppo se un accordo ci sarà, sarà senza il consenso di Israele, ma mi pare che quello che si prevedeva fino a un paio di anni fa, cioè la possibilità di un intervento militare in qualche modo concordato fra Israele e gli Stati Uniti, sia per ora fuori dal novero delle cose possibili. Ecco, ma quanto è concreto il rischio che l'Iran possa produrre in breve tempo la bomba atomica? Ma l'Iran aspira in realtà ad avere una capacità di soglia, così si chiama in gergo, cioè a mantenersi la capacità teorica di costruirla. Il tentativo occidentale è di allungare il più possibile il tempo che intercorrebbe fra questa capacità teorica e la decisione di farsi davvero una bomba. Ecco, un'ultimissima cosa, dottoressa Dassù, il ministro degli esteri Paolo Gentiloni ieri ha detto: se ce lo chiede l'ONU siamo pronti a intervenire militarmente in Libia. Andiamo in guerra? Ma purtroppo la Libia è in guerra, è spaccata a metà e questo ha delle ripercussioni gravissime, molto dirette sul nostro paese, quindi io credo che a un certo punto il problema Libia dovrà essere gestito in prima linea dal nostro paese, che è così sovraesposto. Anche intervenendo militarmente? Ma credo che l'intervento a cui fa riferimento il ministro degli esteri sia un intervento internazionale, con un'egida Nazioni Unite, non so se sia possibile in verità. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. Mix 24. И лампа не горит, и в рот календари. И если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори. Любой обманчив звук страшнее тишина, когда в самый разгар веселья падает из рук бокал вина. И чёрт lunedì allegro allegro, no? È un lunedì catturato dai pensieri, quelli che non servono più e se ne vanno via dalle finestre oppure dalle porte della metropolitana, se ne vanno via a buon luogo, perché come le foto perdute per sempre, come le lettere scritte mai spedite, come i numeri che reggono l'architrave del cosmo, che sono perfetti perché segreti, indicibili perché pronunciati una prima volta nella creazione, attesi poi per la seconda volta nel dì del giudizio e custoditi nelle sacre icone. È successo, Giovanni, che stamattina per un istante la metropolitana di Roma è diventata la metropolitana di Mosca, e siccome, insomma, Mosca è per tre volte Roma, allora tutta quella dolcezza, quella malinconia russa ha preso tutti quanti ed è diventata romance. Мы будем счастливы теперь и навсегда. Привет. Abbiamo capito tutto, no? Allora Mario, oggi nella triste storia del nostro paese, che cosa bolle? Qualche sua fidanzata, sicuro. Sì, adesso. Ma sono tutte dedicate, lo sappiamo. Siamo fiori d'acciaio. Questa è Noemi, Acciaio, un bel pezzo dell'ultimo album che mi pare abbia registrato a Londra, se non sbaglio. Ma insomma, poco importante questo, molto importante invece quello che sta accadendo sull'Acciaio. È una cosa che noi avevamo detto, così diciamo molto sommessamente, umilmente, me lo facciamo notare, sì. E cioè che l'Ilva... probabilmente, pare, forse sembra, dicevano, un tempo tornerà nelle mani dello Stato, forse già oggi addirittura potrebbe esserci un decreto del governo, mi pare un po' pristino, ma insomma potrebbe anche esserci. E l'ipotesi è applicare la legge Marzano, nominare un commissario e fare una NewCo, cioè una nuova società con dentro la Cassa Depositi e Prestiti. Certo, ora, il nuovo IRI, la Cassa Depositi e Prestiti. Secondo noi, diciamo, del nuovo IRI, praticamente. Lo scenario è quello. D'altronde, diciamoci la verità, chiudere l'Ilva è una pura follia. Faremmo un favore ai gruppi siderurgici stranieri. Certo. Finiremmo per svenderla a, appunto, a un gruppo straniero che poi potrebbe farla produrre, non farla produrre, chiuderla in base alle logiche che conosciamo delle multinazionali. Dunque, se c'è lo Stato, anche per un periodo limitato, la risana e poi la rimette sul mercato sperando che non vada a rimpinguare le casse magari di, certo, qualche altro gruppo straniero, è meglio. Quindi insomma, direi che ci siamo. Questo. Io vorrei leggere un sms che ci è arrivato molto curioso, Paola da Firenze, che dice, parlando sempre della televisione di cui parlavamo prima, perché nessuno prende in considerazione che una persona non abbia la televisione. Noi non abbiamo né la TV né l'antenna da 20 anni, non siamo eremiti, abbiamo 2 figli e viviamo nel centro di Firenze, non siamo hippie nostalgici né fanatici di qualche setta strampalata. C'è gente che vive anche così. C'è libertà, non c'è problema. No, ma è interessante. Sì. Nel centro di Firenze. Nel centro di Firenze, vicino a Renzi. Ci sono i tweet. Ci sono... Vicino all'altra casa di Renzi. L'altra casa di Renzi. Perché lui, sì, certo, diventa assieme. Lui c'è la casa, assieme. Quella lì. La casa, quella. Allora. Allora. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui est. Chi è? Fiorello, Fiorello. No, Fiorella. No, Carletta. No. Carlina? Carletta. Carla! Di cosa stiamo parlando? Carla. La grande cantautrice. La femmina per eccellenza. La premier dan, la femmina per eccellenza. Perfino finita in una foto insieme a Letizia Ortiz di un tuo libro, la scegliamo insieme quella foto, tanto per essere chiari. Beh, io vi parlo di Carla, ma in realtà di chi voglio parlare? Pietrangelo, di chi voglio parlare? Di sua sorella. No, basta con il radical chic. Vi parlo dell'uomo della destra francese, l'uomo che riscatterà i gollisti. No! La destra è Marine Sarkozy, Le Pen. Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Allora, ragazzi, bellissima, a volte ritornano. Ha vinto la nomina di nuovo a leader dell'UMP. I gollisti ripartono dal vecchio. 10 anni fa partì Sarkozy, 10 anni dopo torna Sarkozy, deve sfidare appunto Marine Le Pen, che secondo me un po' ringrazia. Però insomma ci siamo consolati, in fondo Carla non canta male. Poi cos'altro c'è, Giovanni? Adesso ci sono i salamini. Cultura Sicilia, che con l'autonomia fottio pure a Mezzia e finemmo in carestia. Che bella la Sicilia. Lo Zibibbo! Lo Zibibbo è stato proclamato patrimonio dell'umanità e l'UNESCO lo riconosce tale. E tutte le ricchezze, come ha spiegato bene Gian Antonio Stella, queste ricchezze sono ben 18, però vanno a minare quelli che dovrebbero essere i luoghi più urgenti. Siccome, insomma, con tutto il rispetto per le altre località d'Italia, la Sicilia custodisce il maggior numero di tesori, allora si perde quello che c'è a Palermo, si perde quello che c'è a Segesta, si perde quello che c'è a Selinunte, a Erice, a Mozia, a Taormina, perfino Preda, tutto ciò dei cementieri. E siccome la regione non riesce a spendere i soldi che le arrivano, l'UNESCO giustamente si è concentrato sullo Zibibbo. Però io vorrei fare questo elenco. Allora, c'è lo Zibibbo, poi ci sono le sarde a Beccafico. Le sarde a Beccafico. Ti piacciono? No. Come no? Sono buonissime. La pasta con le suddette sarde. Sempre sarde, ma perché? Perché poi c'è la pasta con le sarde a mare. Sempre sarde. No, nel senso che non essendoci le sarde, quelle stanno a mare e fai solo la pasta. Poi c'è Musso! Musso. O Musso, il musetto del maialino. Ah, il musetto, che ne so. Poi c'è il calcagnolo, calcagnolo, che sarebbe il calcagno sempre del... Un'altra volta. Il maialino si mangia. Poi c'è il quarume. Ti piace il quarume? Non saccio niente. Sono le interiore. Poi panelle e crocchè. E poi zucchero filato. No. Non ti piace? Troppo dolce. Insomma, il patrimonio UNESCO si è concentrato su queste delizie, piatti e, tutto al più, cemento. Ma i sardi? Solo le sarde. I sardi ce li mangiamo con la pasta. Così parte la favola. C'era una volta un re, sa sa sa ri du pe pe se se. Così parte la favola. C'era una volta un re, veni rumani catacunto al re. Vabbè, vediamo oggi la quota rosa. Sara, che cosa ci racconti? Romagna mia, allegra con Romagna mia, è arrivata la classifica del Sole 24 Ore che misura la qualità della vita nelle province italiane. Una classifica che seguo da quando sono piccolina, non troppo piccolina perché compie solo 25 anni oggi, purtroppo. Quest'anno vince il primo posto con un sorpasso clamoroso dopo anni di podio Ravenna, perché lì si assapora ancora il gusto della vita. E vince, sapete perché? Perché vince Ravenna? Pietrangelo, scusa, in questa classifica mi fai sapere la provincia di Enna come è sistemata? E Malino, Oristano, Malino, anche ci interessa, Malino, Oristano. Malino, Malino, ragazzi. Però Ravenna, dove perché invece vince? Si assapora il gusto della vita, vince perché ci sono i servizi. La città offre i servizi ai suoi cittadini, i famosi asili, per esempio, i famosi servizi per gli anziani. È proprio oggi che si devono pagare le tasse, io penso. A Ravenna saranno felici di farlo perché sanno che i loro soldi torneranno impacchettati, imbellettati, trasformati in servizi, come dovrebbe essere. A noi invece non resta che riavvolgere il nastro della giornata e andare avanti. So canzoniere Pietrangelo? Il canzoniere oggi è... si tratta di indovinare chi è l'autore della poesia cantata da Murolo. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS Murolo. Sì, con mano sciorillo tu tieni una bucchella, un poco bucurillo a passo lì a te. Mi dammi, dammi, ecco mano. Dammi la nuova sigla. 800 24 00 24 per chi vuole indovinare e dircelo, l'SMS 349 238 6666. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, senti qua. Sono i Doors e lei Woman, senti, senti, senti. Mamma mia, che cos'è il rock. Va bene, allora, purtroppo quello che raccontiamo non è molto allegro, anzi direi che è tristissimo, però c'è un suo sottofondo, diciamo, high tech, che è interessante, è sociale. Allora, il titolo potrebbe essere "Ti ammazzo su internet e poi davvero". Avete visto il caso incredibile di quel figuro che ha annunciato l'assassinio della sua compagna su Facebook e poi l'ha fatto davvero a Salerno, certo, non? A Salerno, Salernitano. Esatto, sì. Caso parallelo, per fortuna non è andata con quell'esito tragico, però negli Stati Uniti un rapper postato su Facebook il testo di una canzone dove annunciava le seguenti buone azioni: uccideva la moglie, sparava all'impazzata in un asilo e poi ammazzava un agente dell'FBI. Insomma, è finito sotto inchiesta, lui ha detto scherzavo, il giudice federale però non ci ha creduto e secondo me ha fatto bene, perché c'erano tutti gli elementi nell'indagine e le ha dato la bellezza di 4 anni. La cosa interessante per 2 motivi. Primo, occhio, perché su Facebook vi beccano di tutto. Sì. Il secondo è che in America, come sapete, il primo emendamento, quindi il free speech, no? La libertà di parola è una cosa molto forte, ma questo significa che su internet c'è una certa cautela che sta venendo fuori anche negli Stati Uniti. Quindi attenzione a quello che fate sui social. Sono, perché... sono molti che ci scrivono sull'intervento di Girolamo sulla RAI. Sì. Molti volevano il canone in bolletta. Enzo da Napoli. Pronto? Sì, buongiorno Enzo. Buongiorno, saluto a tutti. Senta, io vorrei che le cose si risolvessero. Cioè, immaginiamo che siamo un condominio, ci sta, chi paga? Gli inquilini pagano tutti quanti la tassa del condominio, perché non devono pagare tutti? O la pagano tutti o non la paga nessuno. Esatto, o tutti i mezzi, certo, che servono per far pagare la tassa, perché purtroppo culturalmente chi c'è la possibilità di non pagare non la paga. Allora... Quindi lei è favorevole alla tassa, al canone in bolletta? Sì, assolutamente. Se questo è l'unico modo per far pagare a tutti quanti, allora pagano tutti o nessuno. Io faccio un paragone storico. Io sono un po', ho 59 anni, si mettiamo la marca sulle patenti. Certo. Non so se vi ricordate. Sì. Poi è stata tolta perché è stata inglobata una tassa di possesso. Esatto. Cioè, che anche la televisione è una tassa di possesso. Sì, no? Sì, vabbè, insomma, ho capito. Lei è favorevole dobbiamo fare chiacchiere, perché le chiacchiere, come si dice a Napoli, da bancare non impegnano. Siamo d'accordo. Va bene, grazie. A molti altri lo dicono, Alex da Padova anche. Intanto abbiamo Graziella da Roma. Graziella, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica, allora, lei è per il canzoniere, no? Sì, sì, secondo me l'autore è Gabriele D'Annunzio. Giusto! scritta al Gambrinus o Gambrinus, che dir si voglia. Va bene. Lei dov'è, signora? Sono a Roma. A casa? Sì, sono a casa. Che fa? Che cosa fa? Sono vecchia, faccio la casalinga. Ah, vecchia. Nessuno è vecchio. Diversamente giovane, signora. Comunque... Sono contenta di sentirvi tutti i giorni, perché siete forse gli unici che dite qualcosa di intelligente. Vabbè, la ringrazio, non signora, è molto gentile. Non l'abbiamo pagata, lo giuro. Pubblicità. Mix 24. Pietrangelo Salamino. Salamini di panettoni, panettoni al cinema, cominciano i cinepanettoni e The Jackal, che è un gruppo di straordinari attori che adesso si adoperano nelle parodie, furoreggiano tantissimo, hanno spiegato che cosa voleva dire veramente Paolo Sorrentino nella scena clou della Grande Bellezza. Ascoltate. Io non volevo solo partecipare alla tombola di Natale. Volevo avere il potere di farla fallire. Ehi, chiama sei? La tombolata di Paolo Sorrentino, che spiega e svela al meglio tutto quello che può accadere in realtà nelle feste. E poi, ecco, un secondo capitolo. Ascoltate, anzi, guardate, perché questa è la radiovisione, su cosa succede davvero in Gomorra la serie, che poi sarebbe la Gomorra vera. Papà, ti ha comprato un regalo di Natale. Certo, Jenny, bello. Una sciarpa. Non mi piace. Ammagagnò. Propongo un brindisi alla nostra famiglia. Vivo! Oh, merda! Comunque, vabbè, scappano le cose di Natale ogni tanto. Sempre cinema italiano è. Senti, però... ma sul tuo nuovo giornale questi film di Natale piacciono? No, esordito oggi, sì, un famoso giornale. Dov'è che è? Penna eretica. Sul misfatto? Misfatto. È un racconto di Natale sul fatto. Giusto, appunto, su una trinità in viaggio verso San Gregorio, via di San Gregorio Armeno, a Napoli, dove si comprano i professor Giorgio Simonelli, professore di storia della televisione alla Cattolica, la televisione al centro del dibattito oramai col suo canone. Dov'era il canone, secondo lei? Ma guardi, qui c'è una new entry, la sentiamo. Ma una new entry di canone? Una new entry, no, di non canone, ma... Che è? La messa. Professore, se io le chiedo dov'era il canone, lei mi fa sentire questa sigla di una nuova televisione albanese, non ci capiamo proprio. Cominciamo a dire che da stasera c'è una nuova televisione, che non è albanese, è una nuova televisione che si fa in Albania, ma si fa in lingua italiana, piena di personaggi della televisione italiana. È al canone? È al canone? No, è una televisione commerciale e quindi non ha il canone. Quindi cominciamo a tener conto di questo fatto. Teniamo una conto. Televisione albanese è stata molto, come dire, presa in giro, molta ironia. Ma mi sembra che esistano tante televisioni commerciali e poco servizio pubblico in giro. Sì, questo sì, però allora c'è una televisione in più. Vedremo come andrà. Tra l'altro, le dico una cosa, una televisione che non fa fiction, in un momento in cui tutte le reti sembrano aver trovato nella fiction la gallina dalle uova d'oro. Comunque, sul canone posso dire la mia? Certo, dica. Io prendo spunto da quella telefonata della famiglia fiorentina. Sì. Bisognerebbe cominciare a capire che il canone si paga non per sé, ma per gli altri. Allora, il fatto che io non abbia la televisione e che vivo comunque bene, tranquillamente, con i miei figli, eccetera, non vuol dire nulla. Non è il fatto che io ho la televisione che mi deve spingere a pagare una tassa sulla sul servizio pubblico. Io non ho figli, ma pago ugualmente le tasse per gli asili nido. Questo è, secondo me, la mentalità. Occorre mettere al centro l'idea che un paese civile ha bisogno di un servizio pubblico. Ecco, ma la gente proprio quindi, quello vuole. Vuole il servizio pubblico, vorrebbe un servizio pubblico. Un servizio pubblico. Allora poi si deve. E per questo le chiedo nella RAI dove è il servizio pubblico. C'è? Nella RAI c'è un po' di servizio pubblico e c'è un po' anche di disservizio pubblico. Ieri sera, per esempio, vi dico la verità, io parlo sempre bene della fiction di Rai 1, poi qualcuno so che fa dell'ironia. Ieri sera invece questo Odissea proprio non era da servizio pubblico. No, non è piaciuta. No. Sa com'è? Mi è venuta una definizione. Beautifulisse. È un Ulisse fatto da Beautiful. Ma perché ci fu l'Odissea? Donne che cospirano, intrighi di donne. Mi chiedo come si andrà avanti con quattro. Insomma, il canone ieri non era sulla RAI. Non era sulla RAI. Vabbè, c'è tante altre volte. Le racconto una cosa io, invece. Il 30 novembre del 28 nasceva Enzo Tortora e noi raccontiamo la storia di questo grandissimo professionista della televisione che poi ha avuto una terribile vicenda giudiziaria che tutti ricordano, però Enzo Tortora soprattutto era l'artefice di un'altra televisione, una televisione che inventava i suoi format, non li comprava. Lui è stato un grandissimo inventore di format e Portobello è stato un po' il suo capolavoro. Intanto ascoltiamo, prima di sentire la storia dopo il giornale radio, la figlia Silvia. Lui mi telefonava tutti i venerdì sera e per me era una tassa, perché arrivava la telefonata a fine trasmissione, diceva come è andata e io rispondevo sempre malissimo. E poi l'unica volta, credo, che sono andata a vederlo in studio, lui ha aperto i microfoni della regia e mi ha corretto un compito davanti a tutto dicendo: bestia, un uomo non si scrive con l'apostrofo. E adesso che cosa pensi? Che cosa ti è rimasto di quello, invece, la cosa più importante? Adesso penso che era una bellissima televisione quella. Era una televisione educata, che entrava in punta di piedi nelle case delle persone, non li costringeva a forti emozioni, non usava urla, parolacce, forzature. Ecco, con Marina Milone, dopo il giornale radio, racconteremo la storia di questo straordinario programma che era Portobello, da cui sono nati tantissimi programmi televisivi. Pubblicità.